come il tuo post Skype? Sombra! Zafiro, Zafiro! Arroso! Arroso! Prossimo net. Arbeit macht nicht frei. I'm not.

We'll be right back. Questo è la cover dei Comrades, per chi la conosce si chiama Selfish, che non è un selfie. Si chiama Selfish! Thank you. mit Bart. Ah, oh, das tut das schon mal los. Das geht mir gut. Das ist vorbei. Thank you. pacchetto di Radio Nero. Portogli. Grazie Noise per esserci ancora, dal giorno che ti ho conosciuto sei sempre stata una delle persone più presenti sul donare in questa cazzo di città. Quindi ho chiuso, massimo rispetto. Facciamo il coperto di cazzo, Cristo! Dai, cazzo! Dai!